prima edizione. L'informazione del mattino. Le 6 e 17 minuti, come si diceva più avanti, parleremo della vicenda dei due nostri connazionali rapiti in India. C'è un'altra vicenda che riguarda connazionali in India, come sapete, ed è quella dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che saranno portati questa mattina davanti al tribunale di Kollam in Kerala per la scadenza dei termini di carcerazione preventiva. Sono reclusi da una settimana nella prigione centrale di Trivandrum ed erano stati arrestati il 20 di febbraio. Per permettere le indagini, il giudice aveva deciso inizialmente 14 giorni di custodia cautelare, estesa per due volte di 7 giorni. Adesso c'è la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per sentire come cosa mettono in prima pagina i quotidiani oggi. Prima edizione. Le 6 e 19 minuti, dunque diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera. In apertura si parla della trattativa difficile per i due italiani rapiti, in India trattativa difficile per i due italiani rapiti, il blitz dei maoisti, dopo le minacce parte il negoziato per salvare la guida turistica e il volontario, i viaggi nell'area erano vietati. C'è un retroscena firmato da Fiorenza Sarzanini che parla dell'intreccio con la vicenda dei Marò, ve ne parlavamo proprio un attimo fa, e poi Giuseppe Sarcine invece ci racconta chi sono questi rapitori, i guerrieri dell'oppio è il titolo. L'editoriale di prima pagina in realtà non è dedicato a questo, ma è dedicato alla politica, alle questioni che riguardano la corruzione, le questioni delle quali si discute in queste ore, firmato da Ernesto Galli della Loggia. Si parla di elite, soldi e senso della misura. Il titolo è palesemente dedicato al sindaco di Bari, Michele Emiliano, perché è le ostriche del potere. E scrive Galli della Loggia che c'è qualcosa di eccessivo, di sottilmente smodato nel rapporto tra la classe dirigente italiana e la dimensione del denaro e del lusso che il denaro consente. Questo solamente l'attacco, naturalmente, dell'editoriale di Galli della Loggia, oggi in prima pagina sul Corriere della Sera. A centro pagina l'ultimatum di Fornero sul lavoro, Monti fiducioso sull'incontro di domani avrà successo, imprese e sindacati sempre più critici, non si discute all'infinito, dice il ministro, l'abbiamo sentita poco fa, riforma anche senza accordo. Da segnalare a centropagina una foto con il neo presidente del neo presidente tedesco, si parla anche di esteri, quindi Gauck presidente e gli altri ossi Germania, la rivincita dell'est. Segnaliamo sempre dal Corriere della Sera, si parla di benzina, cara ma non per tutti, a Bolzano record degli sconti, la provincia di Bolzano ha introdotto per i residenti uno sconto fino a 27 centesimi al litro perché vuole scoraggiare il pendolarismo per fare il pieno in Austria. E poi la storia è una storia che arriva dagli Stati Uniti e che viene raccontata da Massimo Gaggi, la privacy violata che diventa un dramma, si parla di social network, una webcam, un incontro gay, un ragazzo spinto al suicidio. Questa è la storia che ci viene raccontata da Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Veniamo alla Repubblica. Apertura è questa: lavoro, la mossa dei sindacati. Vi abbiamo riferito poco fa degli incontri informali che ci sarebbero stati tra leader di CGIL e CISL e UIL. Bene, oggi arriverà una proposta. Casini intanto dice, anche questo è ricompreso nel titolo, commissariare la RAI. È interessante nell'Atlante politico, che come sapete viene firmato da Ilvo Diamanti, che cosa succede? La lista Monti supera PDL e PD. Si parla di intenzioni di voto, insomma si è andati ad analizzare le intenzioni di voto ipotizzando una lista Monti. Un'ipotetica lista Monti raccoglierebbe il 24,4% dei consensi e nello stesso tempo il PDL prenderebbe poco meno del 20, il 19,8, il PD il 18,5%. Il titolo del commento di Diamanti è infatti un presidente senza partiti. A centropagina si parla ancora di economia e ancora di effetti dei provvedimenti dell'esecutivo. Stangata sulla casa, aumenti fino al 30%, siamo su Repubblica sempre. IMU, ecco i rincari dei comuni. Roma capitale delle tasse. E ancora sulla vicenda di Bari, sulle vicende che riguardano la corruzione, scandalo a Bari, 30 indagati, palazzi venduti a giudici e politici, le case dovevano affittarle a poliziotti, nuova inchiesta della procura. E quindi anche qua si procede, dopo tutte le vicende delle quali vi abbiamo parlato e vi stiamo continuando a parlare in questi giorni. La vicenda in prima pagina naturalmente anche dei due italiani rapiti. Il Messaggero, angoscia per gli italiani rapiti in India, è il titolo che trovate in alto, ma centropagina, quello forte, riguarda la riforma del mercato del lavoro, riforma anche senza intesa. Ci si concentra parecchio sul tema della corruzione in queste ore, tant'è vero che l'editoriale di prima pagina è a firma di Francesco Paolo Casavola e si intitola La morale perduta, le regole da rifare, e riguarda appunto il tema di partiti e corruzione. Una vicenda che non tutti mettono in prima e che riguarda Riva da Varese, dove 7 ragazzi sono stati picchiati in discoteca. Il titolo è, tra virgolette, perché è quello che riferiscono loro, aggrediti perché gay, aggressione omofoba nei confronti di 7 ragazzi da parte di alcuni responsabili della sicurezza di una discoteca di Luino. Questo il quadro per quanto riguarda il Messaggero, che a centropagina mette anche una foto, il quotidiano romano naturalmente lo fa, maratona alla festa dei 100.000, si parla della maratona di Roma che si è corsa ieri. Lavoro, l'ultima mediazione, il titolo di apertura della Stampa, che dedica anche un titolo a parte alla chiusura a Torino delle celebrazioni per l'unità d'Italia e alle parole di Monti, il governo tiene acceso lo spirito di un anno fa. C'è anche il dibattito in tema di lavoro, poi su... È la riforma di Marco Biagi? È quello che si chiede Marco Alfieri. Si parla del gius lavorista ucciso dalle Brigate Rosse 10 anni fa. Oggi ricorre l'anniversario, ne parleremo tra poco in Italia in controluce. L'editoriale di prima pagina è dedicato a questioni che riguardano appunto l'economia, a firma di Luca Ricolfi. Un record italiano, né destra né sinistra, dice meno tasse. Questo per quanto riguarda la Stampa, che ci segnala anche, tra le altre cose, che oggi arriva il nuovo BTP Italia, del quale vi abbiamo parlato ampiamente nei giorni e nelle settimane scorse, quello per il mercato cosiddetto retail, che può essere comprato direttamente dai normali risparmiatori. Il fisco si adegua alla crisi, è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, edizione del lunedì. Nella bozza della delega in bilico 90 miliardi di agevolazioni. Ci saranno dei correttivi anticrisi sugli studi di settore. Il fisco poi dovrà precisare i casi in cui non si applica la maxi IRES al 38% per le società in perdita triennale. E poi naturalmente c'è la rateazione dei debiti, segnalare anche quello di cui vi abbiamo parlato nel giornale radio, con tutto pensione 2012, previdenza senza segreti. Oggi dalle 9.45 alle 12.15 la tavola rotonda con il ministro del lavoro Elsa Fornero, il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Dalle 13.30 alle 16.30 il focus sulla novità della riforma con le relazioni degli esperti. È una giornata che potete seguire anche in streaming video sul sito del Sole 24 Ore. Ora noi chiudiamo qua questa breve occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Ci ritroviamo tra poco con il giornale radio. Prima edizione. 6:35, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Siamo a Bologna del 19 marzo 2002. Un uomo e la sua bicicletta. L'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare ed esperto di riforme del mercato del lavoro.

appunto, secondo i media del governo centrale, c'è stata anche manifestata una sospensione dell'attività militare antiguerriglia nell'ambito dell'operazione Green Hunt lanciata tempo fa. Quindi è una questione locale, però i maoisti hanno soltanto posto sul tavolo un pacchetto di 13 condizioni, 13 richieste per giungere al rilascio di Bosusco e Colangelo, tra cui la liberazione di leader del Partito Comunista dell'India. L'assenza di una risposta però ufficiale alla guerriglia non vuol dire che dietro le quinte non stiano avvenendo contatti volti all'apertura di una trattativa. Allora Anna, vogliamo anche ci aiuti anche a capire chi sono queste due persone che sono state rapite? Certo, in quel momento Bosusco e Claudio Colangelo erano insieme per un trekking. C'è stato appunto un fatto improvviso, un comando armato dei maoisti, secondo appunto il cuoco indiano che è stato sequestrato insieme ai due e rilasciato, e alle sequestrati erano circa 30 e l'hanno preso in ostaggio mentre stavano preparando la colazione vicino a un torrente. Diciamo, erano in un viaggio di esplorazione. Paolo Bosusco ha 54 anni, è originario appunto della Val di Susa e dalle montagne della Val di Susa è passato alle tribù primitive dell'India, perché è stata la passione del trekking per le zone più remote inesplorate a spingerlo appunto a stabilirsi per 8 mesi all'anno in India, e qui ha coronato il suo sogno aprendo a Puri una località indiana nota per i templi induisti, un'agenzia specializzata in escursioni guidate nel rispetto della natura. E invece Claudio Colangelo, 61 anni, è il romano rapito insieme a Paolo Bosusco dai maoisti in India, è un ex impiegato in un istituto di ricerca a Roma e ora in pensione, si è impegnato negli anni in vari progetti di volontariato internazionale a fianco dei medici a cui forniva attività di supporto. In India Claudio Colangelo era andato con la moglie, la quale a quanto si è appreso sarebbe già tornata in Italia. Intanto i familiari restano in attesa e esprimono fiducia nella Farnesina per appunto lo svolgimento della vicenda. Grazie, grazie dunque alla nostra Anna Marino, che poi ritroveremo tra poco anche nel giornale radio. Noi cambiamo argomento. Andiamo a parlare di immigrazione. Al Viminale dovrebbe tenersi oggi un tavolo tecnico sul caso Lampedusa, dove sono ripresi gli arrivi di migranti. La rassicurazione è stata data al sindaco dell'isola, Bernardino De Rubeis, che ha chiesto la riapertura del vecchio centro di identificazione per evitare le emergenze e salvaguardare la stagione turistica. Quindi la situazione è piuttosto pesante. Ha intervistato De Rubeis la nostra Raffaella Calandra. In 48 ore sono arrivati 3 recuperi o 3 sbarchi, 57, 114 e 109. Parliamo di immigrati subsahariani, pertanto aventi diritto all'asilo politico, rifugiati, che vanno destinati all'interno dei CARA presenti in tutto il territorio nazionale. E naturalmente il centro di accoglienza ad oggi è chiuso, fino ad oggi si è cercato di dare ospitalità in una struttura alberghiera incontrata a Calacreta. Ho avuto modo di parlare con il Viminale per chiedere l'immediata riapertura del centro di accoglienza di Indiacola. Quindi innanzitutto voi in questo momento chiedete la riapertura del centro che era stato chiuso anche dopo i momenti di tensione che c'erano stati l'anno scorso? Sì, il centro di accoglienza è stato chiuso il 21 settembre del 2011 quando eravamo in presenza di circa 1500 immigrati tunisini, cosiddetti economici irregolari, che avevano purtroppo un unico destino, quello di essere rimpatriati 100 al giorno oppure destinati all'interno dei CIE nel territorio nazionale. Quegli immigrati si sono sentiti braccati, ricordiamo, ma vogliamo anche dimenticare quella giornata delle 6 ore. Questo è un popolo accogliente, non è un popolo razzista, vogliamo vivere di turismo, l'ho sempre detto, non vogliamo vivere di industria, di accoglienza gestita in malo modo, meglio gestita da organizzazioni malavitose. Voi adesso la riapertura del centro, perché la volete? Sono convinto che gli immigrati devono avere un posto dove possono essere con serenità e rispetto delle leggi assistiti. Non dobbiamo far arrivare una cattiva gestione che poi diventa emergenza, perché ad oggi non è emergenza. Ho capito, quindi lei dice che in questo momento voi riuscite a far fronte a questi numeri e quindi a dar loro anche una sufficiente accoglienza. Se ci dovessero essere essere dei numeri diversi, se non fosse riaperto il centro questo non sarebbe materialmente possibile, giusto? Certamente sì, si parla di un 10.000 presenze in tutto l'anno e l'area marina protetta tra qualche giorno inizieranno i lavori, pertanto non sarà più disponibile. La struttura alberghiera ha 100 posti, nell'ipotesi in cui ne arrivano 200 non abbiamo dove metterli, allora è giusto che all'interno del centro si ritorni al modello Lampedusa, 24 ore, 48 ore, accoglienza e via. Sarei un ipocrita dire non li vogliamo o rispettiamo quello che è il discorso del porto non sicuro, perché nell'ipotesi in cui arrivano immigrati le motovedette da sole non riescono a portarle a Porto Empedocle, perché se c'è un nuovo avvistamento le motovedette sono impegnate e pertanto gli immigrati rischiano di annegare. Prima edizione. Sono le 6:49 minuti, c'è qualche notizia che vi dobbiamo dare prima di chiudere. Iniziamo da quello che è successo ieri sera ad Atene, dove c'è stato il derby tra Panathinaikos e Olympiakos Pireo. È stato prima interrotto per due volte e poi definitivamente sospeso per gli incidenti e le violenze dei tifosi, che hanno provocato una ventina di feriti tra le forze dell'ordine e circa 50 arresti. I pompieri sono dovuti intervenire con 3 automezzi per spegnere gli incendi appiccati in diverse zone dello stadio, appunto soprattutto dai supporter del Panathinaikos. Altre notizie della notte. La prima riguarda gli Stati Uniti, dove Mitt Romney, come previsto, ha vinto le primarie repubblicane che si sono svolte a Porto Rico. L'ex governatore del Massachusetts, secondo le proiezioni dei principali media americani, ha ottenuto oltre l'80% dei voti, con Rick Santorum che non è andato oltre l'8%. A Porto Rico, che è un territorio degli Stati Uniti dove però non si vota per le presidenziali, ma per le primarie sì, si assegnavano una ventina di delegati. Ora, la grande attesa naturalmente per quanto riguarda le primarie è per il voto di martedì 20 in Illinois e in Louisiana sabato 24. Abbiamo parlato ampiamente degli italiani rapiti in India, lo abbiamo fatto nei giornali radio, lo abbiamo fatto con l'aggiornamento di poco fa. Arriva una buona notizia per quanto riguarda invece due turiste brasiliane che erano state sequestrate lì nella penisola del Sinai in Egitto. Ebbene, sono state rilasciate dai beduini, lo ha confermato la polizia egiziana dopo l'annuncio dato dal ministero degli esteri brasiliano. Sono state liberate e portate nel loro hotel, ha fatto sapere un portavoce ministeriale da Brasilia. I servizi di sicurezza sono riusciti, in collaborazione proprio con i leader beduini, ad ottenere la loro liberazione. Ed è veramente tutto per prima edizione. Un ringraziamento a Roberto Scaltritti in regia, a Viola Bottoni in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre, da Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra poco con tutte le notizie del giornale radio.